La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net. Il ladro di fiori nel regno di Tulipandia. Una fiaba liberamente ispirata dalla tradizione popolare, scritta e messa in voce da Gaetano Marino. In quel tempo, nel regno di Tulipandia, governava un sovrano ben voluto dal popolo, che si chiamava Re Bulbo. Egli aveva due figli, Bulbotto, il più grande, e Bulbetto, il più piccolo. Re Bulbo aveva una moglie dolce, bella e con i capelli biondo argento. Il suo nome era Pistilla. Purtroppo una malattia sconosciuta l'aveva portata nel mondo del lungo sonno, quando ancora i figli erano in fasce, e per il re Bulbo fu un grande dolore. Tutto accadde in una mattina di piena primavera. La regina s'era alzata presto, come sempre, e stava seduta a tavola per far colazione insieme a Coccinilla, la balia dei suoi figli. Con lei conversava sugli impegni della giornata e il da farsi per i piccoli Bulbotto e Bulbetto. Coccinilla ogni mattina faceva trovare alla regina un fresco mazzo di fiori sulla tavola, perché sapeva che con il loro profumo e la bellezza loro avrebbero donato alla regina un modo piacevole di cominciare la giornata. Quella mattina la balia mise sulla tavola un grande vaso con un bel mazzo di fiori di melissa. Era il mese di maggio e quei fiori erano profumatissimi. Dopo aver desinato, la regina ordinò il solito caffè, che, come d'abitudine, prendeva insieme a suo marito il re. Quando il caffè fu messo a tavola, Pistilla chiese a Coccinilla di andare a chiamare il sovrano. Ma la balia, appena si voltò per uscire, d'improvviso sentì un gran fracasso di tazze e bicchieri frantumarsi sul pavimento. Pistilla era svenuta, tirando a sé la tovaglia. Tutti accorsero, guardie, inservienti e medico. Sollevarono con cautela la regina e la misero sul letto. Subito chiamarono a gran voce il re, che si precipitò rapido nella camera della regina, e quando vi giunse calò il silenzio. Il re guardò il medico e il medico ricambiò il suo sguardo scrollando le spalle. Allora egli capì e mosse la testa, incredulo. Tese tremando le braccia e si inginocchiò rivolto all'amata regina con il pianto che gli inondava il viso. «Pistilla! Pistilla! Amata mia! Non posso credere che tu... No! No! Perché? Perché?» Il re chiamò a gran voce l'amata regina. Urlò disperato con grida che nessuno dimenticò più, ma Pistilla oramai aveva smesso di respirare. Intanto gli occhi della regina erano rimasti aperti e bisognava chiuderli, cosicché il re pose la mano sul viso dell'amata per abbassare le palpebre, ma stranamente quelle tornavano ad aprirsi. D'improvviso una lacrima scivolò sul viso della regina e bagnò il cuscino. Pareva che gli occhi della povera pistilla non volessero credere a quella morte. Il re provò ancora a chiuderle gli occhi, ma quelli restavano aperti e un'altra lacrima rigò il viso di Pistilla. Pareva fosse un rimprovero. Re Bulbo affidò quel compito pietoso al medico, ma nemmeno lui riuscì a chiudere gli occhi della sovrana. Dopo un attimo di stupore, il re osservò meglio Pistilla e gli parve che sorridesse, seppure il suo cuore avesse smesso di battere. Il re allora decise di non seppellire sotto la fredda terra la sua amata Pistilla. Ordinò di costruire una bara di cristallo e quando fu pronta vi depose il corpo della regina. Il feretro fu messo in una cappella funeraria fatta costruire nel giardino proprio accanto alla panchina di sotto il salice. Era lì, su quella panchina, che il re e la regina andavano a sedersi per parlare d'amore. Da allora, ogni mattina, Re Bulbo tornava su quella panchina per dialogare con la sua regina Pistilla, alla quale rivolgeva tante domande, come se fosse ancora in vita e stesse seduta accanto a lui. Passò un anno e incredibilmente l'aspetto della regina Pistilla apparve immutato. Il corpo roseo, gli occhi ridenti e i capelli biondo argento luminosi che crescevano ogni giorno di più. Ma bisognava tornare a vivere e quando il tempo del dolore fu consumato, per non lasciare Bulbotto e Bulbetto privi di una madre adottiva, Re Bulbo pensò che fosse giunto il tempo di risposarsi, pur non cancellando mai dal suo cuore l'amata Pistilla. Decise di sposare Coccinilla, dato che era la balia dei suoi figli da sempre. Chi meglio di lei poteva occuparsi di loro? Coccinilla fu dunque proclamata regina. Ma appena ebbe la corona in testa, lei, che sino ad allora s'era mostrata umile, brava e ligia nel proprio lavoro, mutò giorno dopo giorno nel carattere e nelle pretese. Divenne viziatella, amò il lusso senza limiti, dava feste così piene di fasto e tanto dispendiose che divennero famose in tutto il regno, che ovviamente alimentavano i pettegolezzi a corte e le critiche del popolo. Finché un giorno Coccinilla pretese che il castello venisse arredato in ogni luogo con piante e fiori di melissa e che soprattutto si rinnovassero ogni giorno perché fossero freschi, appena colti. Il più grave cambiamento riguardò il proprio compito di matrigna nei riguardi di Bulbotto e Bulbetto, che trascurò quasi del tutto. Tra i tanti cambiamenti ci fu quello del re Bulbo, che da quando sposò Coccinilla mostrò d'avere sempre un gran bisogno di dormire. E quel bisogno aumentava ogni giorno di più, probabilmente dovuto al troppo tempo dedicato al governo del regno. Almeno così pensarono i consiglieri e i figli. Inoltre, il re approvava, senza far domande, ogni decisione della regina Coccinilla. Aveva persino ordinato di destinare gran parte delle sue terre alla coltivazione delle piante di melissa, che stranamente erano sempre in fiore. Venne un giorno in cui la regina Coccinilla si lamentò con il re, chiedendo spiegazioni del perché i suoi figli non le portassero più fiori di melissa. Subito il re convocò i suoi figli nella sala del trono. «Figli miei adorabili», disse il re Bulbo, sempre un po' affaticato e con al fianco la regina Coccinilla, «possibile che non ci portiate più fiori di melissa? Sapete quanto la vostra regina ed io pure li adoriamo? Guardate la vostra matrigna! Volete davvero che ella continui a soffrire tanto?» «Giammai, padre caro e adorabile regina», risposero i figli. «Ecco, bravi figli, questo volevo sentirvi dire, ma voi, ahimè, non portate più nemmeno un mazzetto di fiori!» Il principe Bulbotto si fece avanti e parlò. «Padre re, da tempo volevamo parlarvene. Ebbene, abbiamo saputo dai giardinieri di un ladro misterioso che ogni notte, quando non vi è più nessuno nei campi, ruba tutti i fiori di melissa. Ma non abbiatene pena, padre. Oggi stesso andrò io a sorvegliare.» «Oh, ti ringrazio, figliolo, grazie. Grazie davvero», disse il re con uno sbadiglio largo che quasi si addormentò. Il principe Bulbotto si recò subito nei campi di fiori di melissa. Quando giunse la notte, improvvisamente egli si sentì avvolgere da un velo di fiori di melissa profumatissimi e s'addormentò. La mattina dopo, il principe Bulbotto fu svegliato da uno dei giardinieri di corte e vide i campi di melissa privi di fiori. Bulbotto tornò avvilito a corte e si scusò perché non sapeva come mai si fosse addormentato. Quel che ricordava era solo un profumo intenso di fiori di melissa. Quello stesso giorno volle andare a far la guardia il principe Bulbetto, che si portò un sonaglio, un mantello e una spada. Quando il principe arrivò sul posto, prima di nascondersi, legò a un ramo il sonaglio, poi si appostò sotto quel ramo, tenne la spada vicino al corpo e si avvolse con il mantello. Appena scese la notte, d'improvviso si sentì vibrare il sonaglio. «Rapido!» Bulbetto strinse l'impugnatura della spada. Quando il ladro sconosciuto gli passò accanto, Bulbetto percepì un leggero profumo di fiori di melissa. Rapido, il principe si coprì il naso con un lembo del mantello e saltò fuori da sotto, indietreggiando di qualche passo. per tutti i diavolacci. Davanti al principe stava una creatura mostruosa, mezzo serpente e mezzo drago. Rapido come un furetto, Bulbetto si avventò furioso con la spada contro quel mostro che, colto di sorpresa, restò immobile come un alloco e con un fendente deciso Bulbetto ferì il mostro, mozzandogli di netto un orecchio. Il mostro fuggì ululando con il sangue che gli colava dalla ferita. Quando venne la luce del giorno, Bulbetto vide in terra un orecchio enorme, dalla strana forma appuntita e deforme. Tornò al castello portando con sé l'orecchio reciso e un bel mazzo di fiori di melissa. Quando vi arrivò, donò alla regina i fiori, poi mostrò al padre re il grande orecchio del ladro, descrivendolo come un mostro orribile. Padre, quel mostro io l'ho ferito e chiedo che con il mio caro fratello noi si possa andare a caccia del ladro di fiori, seguendo le sue tracce di sangue. Ma no, non credo sia necessario, si intromise subito la regina Coccinilla. Non crediamo che possa più tornare ora che l'abbiamo scoperto. Sarebbe meglio lasciar stare i mostri dove stanno. A proposito, principe Bulbetto, i vostri fiori sono bellissimi e profumati. Grazie, regina Coccinilla. Ma con tutto il rispetto, io dico che quel ladro non può essere lasciato libero e impunito, perché allora chiunque potrebbe rubare i nostri fiori e chissà cos'altro ancora, dibatté Bulbetto. Lo penso anch'io. Dobbiamo dargli la caccia e imprigionarlo, soggiunse il principe Bulbotto. Il re, invece, diede torto ai suoi figli e decise che la questione oramai era risolta e di lasciare in pace quel ladro di fiori. I due principi stupirono a quelle parole del padre re. Che stava succedendo? In un tempo passato, re Bulbo mai avrebbe rinunciato ad inseguire un ladro e punirlo. Figuriamoci ad un furfante che razziava i campi di fiori del regno. Quella decisione del re si aggiunse alle altre stranezze mostrate di recente. Perciò Bulbotto e Bulbetto decisero in segreto di preparare ogni cosa per andare a caccia del ladro di fiori di melissa. La mattina dopo, i due fratelli prepararono ogni cosa e partirono seguendo le tracce di sangue lasciate dal ladro, finché arrivarono davanti a un pozzo. «Il ladro deve essere qui, nel pozzo», disse il fratello maggiore Bulbotto, mentre raccoglieva un sasso da gettare dentro il pozzo per scoprire se fosse pieno o no. Il sasso cadde per un bel po', finché si sentì lontano un tonfo sordo. «Il pozzo è vuoto», disse Bulbetto. «Mettiamo una carrucola con una lunga fune e io, che sono più piccolo e leggero, mi imbracherò e tu mi calerai giù. Porterò con me una torcia e quando sarò arrivato sul fondo suonerò il sonaglio». E così fecero i due fratelli. Una volta arrivato sul fondo, Bulbetto suonò il sonaglio, si guardò attorno con la torcia e vide un cunicolo di passaggio che si inoltrava verso chissà dove. «Fratello mio, ho trovato un passaggio segreto! Proverò ad inseguire il ladro!» disse Bulbetto a gran voce. «Va bene, ma fai attenzione. io starò qui ad aspettarti e suona il sonaglio al tuo ritorno», rispose Bulbotto. «Stai tranquillo, troverò quel ladro di fiori». E Bulbetto s'avviò per quel passaggio. Dopo qualche metro sbucò in aperta campagna, dove vide due castelli che si ergevano su un isolotto posto in mezzo a un lago pieno di ninfee. Al di là del lago stava un grande campo d'erba melissa in fiore, il cui profumo arrivava leggerissimo, lo stesso profumo che Bulbetto sentì quando stette di guardia. Dopo pochi passi, Bulbetto giunse sulla riva del lago delle ninfee, dove trovò un ponte di bambù che galleggiava sull'acqua e arrivava sino all'isolotto dei due castelli. Accanto al ponte stava agli ormeggi un piccolo vascello. D'un tratto si sentì un gridolino di guerra. «Oh, oh, oh, oh, oh, oh!» E con una cima fissata all'albero maestro calò velocissimo dall'alto un uomo piccino vestito da generale. Aveva un cappello tricorno ed era pieno zeppo di medaglie. Il generale estrasse la spada e minacciò il principe intruso. «Alto là! Io sono il generale dei generali, custode di quel che vedete e non vedete. Voi chi siete?» «Salute a voi, generale dei generali. Io sono il principe Bulbetto del regno di Tulipandia.» «Principe, ditemi, cosa fate qui e dove andate?» E Bulbetto raccontò al generale dei generali ogni fatto. «Principe Bulbetto di Tulipandia, siete un ragazzo temerario. Ebbene, da quanto mi dite, il ladro di fiori è certamente rifugiato da queste parti. Voi però forse non sapete in quale viaggio state per avventurarvi.» «Sia quel che dovrà essere, altissimo generale dei generali. O prendo il ladro di fiori, o sarà il disonore a prendere me, e dovrò nascondermi», disse con grande orgoglio il principe Bulbetto. «Bene, come voi desiderate, principe Bulbetto, ascoltatemi dunque. Sappiate che in ognuna delle torri di quei castelli giace prigioniera una principessa. La prima sfida sarà quella di liberarle. Sarete voi all'altezza di questo compito?» «Come vi ho già detto, pregiatissimo generale dei generali, io non temo nessuna sfida. Sono pronto a qualunque sacrificio e soprattutto non posso perdere tempo, perché ho mio fratello che attende in cima al pozzo. Porgo a Vossignoria i miei saluti», disse congedandosi il principe Bulbetto. «Perdonate, principe Bulbetto, ma non vi ho ancora detto tutto. Abbiate dunque la pazienza di ascoltarmi.» Il principe Bulbetto si fermò e il generale dei generali proseguì. «Se vorrete catturare il ladro di fiori, dovrete prima affrontare una seconda sfida.» «Quale sarebbe?» «Uccidere una creatura mostruosa che vive sotto il lago delle ninfee. Debbo però avvertirvi che di questi tempi il mostro è infuriato, perché di recente è stato ferito in combattimento e a causa di quella ferita egli sanguina molto, perciò ha un bisogno assoluto di succhiare sangue da uomini o animali, e voi sareste un ottimo pasto, senza offesa.» D'improvviso una leggera brezza di vento piegò in avanti il tricorno del generale dei generali, scoprendo due grandi orecchie di un topo non topo. Il principe Bulbetto domandò in che modo sarebbe potuto arrivare alle due principesse prigioniere e senza svegliare il mostro. Il generale dei generali gli disse che l'unico modo per arrivare all'isolotto dei due castelli era quello di attraversare in silenzio il ponte di bambù che galleggiava sul lago. Sarebbe bastato un piccolissimo rumore perché il mostro si accorgesse della sua presenza, e a quel punto il principe poteva dire addio all'impresa eroica, oltre che sicuramente alla sua vita. Ma ci sarà pure un rimedio per raggiungere l'isolotto senza far rumore? Domandò il principe. State tranquillo, c'è sempre una soluzione, proseguì il generale dei generali. Vi procurerete due grandi foglie di ninfee e con esse costruirete un paio di copristivali e renderanno i vostri passi silenziosissimi e non vi accorgerete nemmeno di camminare. Allora dovrò farne anche altre due paia per le principesse. No, non vi serviranno. Perché? Perché, come vi ho già detto, dopo aver liberato le principesse dovrete affrontare il mostro se vorrete catturare il ladro di fiori. Perciò, una volta libere le fanciulle, troverete un luogo sicuro dove nasconderle. Poi tornerete sul ponte di bambù, vi leverete i copristivali e pesterete forte con i piedi sul ponte per richiamare il mostro e finalmente lo affronterete. Vi è chiaro adesso? Lo so, è piuttosto complicato, ma non ci posso fare niente. Non l'ho scritta io questa storia. Uffa! Io semplicemente mi limito ad eseguire gli ordini. Di chi? Non si sa. Del resto, non si è mai saputo. Allora, vi è chiaro il programma? Credo di sì. Vi ringrazio ancora, signor illustrissimo generale dei generali. Smettetela di chiamarmi così. Tanto lo so che avete capito chi sono. Io? Ma no. Ma che dite? Riverisco i miei omaggi a Vossignoria, generale dei generali, disse il principe Bulbetto, tirando su un leggero ghigno sulle labbra. Dopodiché, strizzando l'occhio all'uomo piccino, vestito da generale, pieno zeppo di medaglie e con un capello tricorno da sotto il quale spuntavano due grandi orecchie di un topo non topo, s'avviò verso il lago delle ninfee. Sempre grati e devoti al ghiro parlante, soriche padente, disse infine il principe Bulbetto senza voltarsi e scomparve. Giunto sulle rive del lago, il principe prese due belle grandi foglie di ninfee e si costruì un paio di copristivali morbidissimi. Li indossò e attraversò senza alcun rumore il ponte di bambù finché arrivò sull'isolotto dove sorgevano i due castelli. Il primo castello che vide aveva giardini pensili di fiori di begonia. Tra le tante begonie, una stava in cima a una torre ed era particolarmente grande. Al centro del fiore s'aprì una finestretta da dove s'affacciò una fanciulla. «Ciao, io sono la principessa Begonia». «Ciao, principessa Begonia. Io sono il principe Bulbetto e sono qui per portarti via con me». «Grazie, principe Bulbetto. Ma come potrò fuggire da quassù? Io non ho una scala, né una fune e nemmeno capelli così lunghi che arrivino sin dove stai tu». «Non temere, principessa. Vengo io a prenderti». Il principe s'arrampicò per i rami del giardino pensile sino alla torre. Quando vi arrivò, vide che Begonia era davvero bella e disse che lei sarebbe andata in sposa al fratello maggiore, il principe Bulbotto. La principessa Begonia fu felice di accogliere la novella. Poi inviò con l'ape messaggera una lettera segreta alla sorella Iris, prigioniera nella torre dell'altro castello. Quando la principessa Iris ricevette il messaggio, accese subito una lanterna. Era quello il segnale con cui ella comunicava che avrebbe atteso il principe liberatore. Bulbetto si mise sulle spalle la principessa Begonia e la portò giù. Arrivati a terra, i due andarono al secondo castello, dove crescevano giardini pensili di fiori di iris. Appena giunti, il principe Bulbetto s'arrampicò sino alla torre. Bastò che Bulbetto vedesse Iris e subito qualcosa si agitò nel suo cuore. Poi disse: «Principessa Iris, volete essere la mia sposa?» «Sì, lo voglio», rispose con un gran sorriso la principessa Iris. «Venite, vi porto con me», disse il principe Bulbetto. Dopo la liberazione delle due principesse, venne per Bulbetto il momento di combattere contro il mostro. Cercò un anfratto dove nascondere Begonia e Iris, dicendo loro di aspettare il suo ritorno, ma se al tramonto egli non fosse tornato, Begonia e Iris sarebbero dovute correre sino al fondo del pozzo, da dove suo fratello Bulbotto le avrebbe tratte in salvo. Bulbetto si levò i copri stivali di ninfè e corse sul ponte di bambù, dove pestò forte con i piedi per risvegliare il mostro. Subito l'acqua d'intorno ribollì ed emerse imponente un mostro. «Chi sei tu che osi disturbare il mio riposo?» sbraitò il mostro con voce tonante. «Io sono il principe Bulbetto, figlio del re Bulbo, sovrano del regno di Tulipandia, e vado a caccia del ladro di fiori.» «Oh, ecco dove ti ho visto! Tu sei quello che m'ha mozzato un orecchio!» «Ah, allora sei tu il ladro di fiori!» «Io sono il mostro Drago di Serpe e non sopporto i fiori, tantomeno quando profumano.» «Sei un mentitore!» «Principe Bulbetto, da quando vivo in questo lago sono sempre stato un mostro pacifico. Lo so che nelle fiabe non dovrebbe essere così, ma chi m'ha voluto e fatto così. E soprattutto, qui non m'è mai mancato niente.» «E allora perché sei venuto a rubare i nostri fiori?» «Perché sono stato costretto.» «Costretto? Ma da chi?» «Da una strega cattiva, che aveva bisogno delle ossa delle mie ali per realizzare un filtro che desse una morte apparente.» «E chi è questa strega?» domandò Bulbetto, ma Drago di Serpe rimase in silenzio. «Dimmi chi è!» gridò il principe. «Basta! Preparati a morire, fellone!» gridò il mostro. Il combattimento cominciò. Ci furono stoccate di spada e graffi d'artigli nella carne, grida, minacce, ruggiti e grugniti. I due sfidanti si azzuffarono per parecchio tempo, finché caddero a terra entrambi sfiniti, uno di fronte all'altro. «Complimenti, principe Bulbetto, sei un uomo coraggioso e forte», disse con affanno Drago di Serpe. «Anche tu, Drago di Serpe, sei un grande guerriero», disse il principe Bulbetto, pure lui con un sospiro affannoso. Oh, non più, principe, non più. Un tempo lo fui per davvero. Mio padre era un cavaliere di grande valore, che aveva giurato obbedienza e guardia al servizio del re Bulbo, tuo padre. Quando raggiunsi l'età della ragione, mi insegnò il coraggio e i valori della vita che rendono un uomo degno di vivere, come l'onestà, il rispetto e la dedizione al prossimo in difesa dei più deboli. Venne poi quel giorno nefasto in cui, mentre andava a caccia, vide lontano un grosso cervo. Senza nemmeno riflettere, egli afferrò l'arco, inforcò la freccia e tirò dritto al cuore dell'animale. Colpito in pieno, mio padre gioì e disse con orgoglio che nessuno sarebbe stato capace di colpire un cervo da quella distanza, nemmeno la potente strega del bosco. Il destino volle che la strega vivesse da quelle parti e aveva sentito le parole di mio padre e subito gli apparve. Mio padre sapeva che quando hai a che fare con una strega non si deve né scappare né affrontarla e soprattutto non bisogna guardarla negli occhi. I loro poteri sono assai pericolosi per noi umani perché non possediamo i segreti delle loro malefatte e le loro stregate. Ebbene, quella strega cattiva minacciò mio padre, dicendogli che le sarebbe stato facile trasformarlo in una talpa cieca per quelle parole d'orgoglio. Quel giorno però la strega si mostrò magnanima e con uno sguardo languido disse che si sentiva d'animo buono e volle da mio padre solo il frutto più bello che egli avesse nel suo giardino in cambio. Mio padre, felice per il pericolo scampato, corse in giardino. Ma quella non era stagione di frutti. In giardino stavo solo io ad innaffiare. Io ero il suo frutto più bello. Fu allora che mio padre ricordò che la strega del bosco non poteva essere d'animo buono, come ella gli disse, perché le streghe non hanno un'anima. E si rifiutò di consegnarmi alla strega. Quella notte stessa mio padre fu trasformato in una talpa cieca e io in un mostro, levandomi la memoria del nome. Poi giunsero le furie e nel maleficio mi imprigionarono in questo lago. Terminato il racconto, scese il silenzio. D'un tratto il principe Bulbetto si levò in piedi e disse: «Vieni via con noi!» «Con voi? E dove potrò andare? Guarda che mostro sono! Re Bulbo, mio padre, saprà restituirti ciò che è nel tuo diritto. Potresti stare tu a guardia dei nostri campi di fiori, cavaliere drago di serpe! Sarebbe meglio per voi distruggere quei campi. I fiori di melissa sono la causa del male che vi sta distruggendo. Ti sono grato, principe, ma non posso accettare. Da quando la strega mi ha staccato le ossa dalle ali, non riesco più nemmeno a combattere. Sono stanco. Streghe dannate, possiate sciogliervi nei vostri forni, disse rabbioso il principe Bulbetto. Coccinilla. Lei è la strega del bosco. Coccinilla, la vostra matrigna. Coccinilla. Ah, maledetta strega! Guardatevi tutti da lei, principe Bulbetto. Dette quelle parole, Drago di Serpe sentì il suo corpo liquefarsi. Ecco, guarda, o mio principe Bulbetto, la profezia si avvera. Forse Coccinilla non potrà più nuocere. E io finalmente sto scomparendo. Lentamente il corpo di Drago Serpe si sciolse del tutto e scivolò via oltre il ponte per unirsi alle acque del lago delle ninfee. Sapeva che per lui sarebbe stata la fine se avesse rivelato il nome della strega Coccinilla, disse una voce. Il principe Bulbetto guardò intorno a sé e scoprì sul bordo del ponte di bambù il ghiro parlante. Ora finalmente suo spirito potrà riposare sotto le grandi foglie di ninfee e compiere lungo viaggio verso il giardino degli asfodeli. Ma tu ora devi sbrigarti ad andare via, principe Bulbetto, e porta in salvo le principesse. Corri al castello. La vita di tuo padre e di tuo fratello sono in pericolo. Così disse Soriche Padente, prima di salire su una grande foglia di ninfea, per farsi poi trascinare via dalla corrente. E scomparve. Bulbetto e le principesse corsero al fondo del pozzo, attraversarono il passaggio segreto e appena vi giunsero il principe suonò il sonaglio per avvisare il fratello Bulbotto che era ritornato e che gli mandasse giù la fune. Ma Bulbotto non era più lì. Al posto della sua voce si sentì invece quella della regina Coccinilla, che domandò: «Ma voi siete vivo, principe Bulbetto?» «Dov'è mio fratello?» domandò il principe Bulbetto. «Il principe Bulbotto non è qui. Vostro fratello non vi vedeva tornare da giorni e ha creduto che foste morto. Poi è corso al castello per dare la triste notizia che ha gettato tutti noi nello sconforto. Vostro padre si è molto arrabbiato per non avergli ubbidito. Chiarirò ogni cosa con mio padre. E voi perché siete tornata qui? Perché sono vostra madre. No, voi siete la mia matrigna. Calate comunque la fune, regina Coccinilla. Ho con me due principesse. Ah, sì? Bene, eccola. Coccinilla calò la fune. Bulbetto prese la cima, la legò intorno alla vita della principessa Begonia e ordinò di tirarla su. Una volta risalita Begonia, fu la volta di Iris. Ma prima di legarla alla fune, Bulbetto sfilò un anello d'ambra e lo donò alla principessa dicendole: «Tieni, mia amata, finché questo anello avrà luce, io sarò vivo. Ricorda». Allora Iris donò un fazzoletto ricamato di bisso dorato a Bulbetto e gli disse: «Tieni, amato mio, quando ti soffierai il naso con questo fazzoletto, otterrai tutto quello che ti servirà». Bulbetto legò Iris alla fune e disse alla regina Coccinella di tirarla su. Una volta risalita Iris, fu la volta di Bulbetto, ma al suo posto egli legò alla fune una grossa pietra, e quando Coccinella, pensando di portare su il principe, fu a metà tragitto, tagliò di netto la fune e sentì cadere giù colui che credette essere Bulbetto. Coccinilla tornò al castello con le due principesse e si finse disperata, raccontando ciò che era successo al povero principe Bulbetto, la fune spezzata che mostrò al re e alla corte fu la prova evidente. Il re si disperò e dichiarò un anno di lutto in tutto il regno, ma la principessa Iris, che vedeva l'anello d'ambra che ancora emanava luce, disse che il principe Bulbetto non poteva essere morto. «Ma che dite?» intervenne stizzosa la regina Coccinilla. «Io stessa l'ho tirato su, ma poi ho sentito la fune spezzarsi, è un tonfo. Ho chiamato a gran voce più volte, ma non ho avuto risposta. Rassegniamoci, principessa Iris. Oh, è che il vostro amato Bulbetto riposi in pace!» Trascorso il tempo del dolore, furono celebrate le nozze tra il principe Bulbotto e la principessa Begonia. Durante i festeggiamenti, re Bulbo s'avvicinò gentilmente alla principessa Iris e disse: «Iris, principessa onorata, voi siete stata liberata dal mio compianto figlio, principe Bulbetto. Sappiate dunque, e se avrete piacere, che d'ora in poi farete parte della nostra famiglia reale, come una figlia. Vi ringrazio per il grande onore, maestà. Accetto con grande piacere la vostra generosità. Ma dovete sapere che il principe Bulbetto mi donò questo anello d'ambra prima che venissi fuori dal pozzo, dicendomi che quando vi prego, principessa, egli non è più con noi», la interruppe il re. «Dobbiamo rassegnarci al volere del destino. A tal proposito, e con tutto il rispetto che ho per voi e per la memoria del mio compianto figlio, debbo dirvi che molti principi stranieri hanno avanzato il piacere di chiedere la vostra mano. Vorrei dunque invitarvi a prendere in considerazione l'eventualità di un vostro prossimo matrimonio, ma non dovete sentirvi obbligata». Iris, che non s'aspettava quella proposta del re, disse che aveva bisogno di qualche giorno per pensarci. Il re le concesse tutto il tempo di cui avesse bisogno. La principessa tornò nella sua camera, mentre osservava l'anello d'ambra, ancora luminoso. «Che fare, dunque?» Si tolse l'anello, lo appoggiò su un tavolino accanto al letto e si diresse allo specchio, dove sciolse i capelli e prese la spazzola. Ma appena l'adagiò ai capelli, la sua immagine riflessa scomparve. Al suo posto presero forma due grandi orecchie di un topo non topo. Iris rimase immobile. Fu come se il tempo si fosse fermato e una voce parlò: «Non abbiate timore, principessa Iris. Sono la voce del ghiro parlante, Soriche Padente. Domani stesso comunicherete al re che sarete disposta a sposarvi, ma a patto che venga annunciata una gara a cavallo tra i pretendenti. metterete l'anello d'ambra di Bulbetto in cima ad un'asta, e solo chi riuscirà ad infilzarlo con l'alabarda sarà degno di sposarvi. E sono sicuro che il destino vi sarà favorevole. Dette quelle parole, le grandi orecchie del ghiro parlante svanirono, e nello specchio riapparve l'immagine riflessa di Iris, intenta a spazzolare i suoi folti capelli. L'indomani, quando il re sentì le richieste della principessa Iris, fu assai contento e subito fece fare un proclama dove si annunciava il palio di una gara a cavallo per conquistare l'anello e la mano della principessa Iris. Molti cavalieri provenienti da diverse parti del regno giunsero per partecipare al palio. Tra i tanti ve ne stava uno che cavalcava un vecchio mulo. L'alabarda della sua casata era sbiadita e consunta dal tempo. Portava abiti umili e sul viso aveva una maschera piuttosto particolare. Ma chi sarà mai quel misero pretendente? Pare un villano al ritorno dai campi. Ma no, sicuramente sarà della casata dei carciofi in fiore. Si vergogna tanto che porta persino una strana maschera sul viso. Speriamo si lavi quel zotticone. Secondo me si striglia con la brusca. Chiamarlo cavaliere sarebbe un'offesa al rango. Commentò il popolo, ciarlando e ridendo. Ma il regolamento del palio non poneva condizioni sulle origini dei pretendenti. Bastava presentarsi con un quadrupede qualsiasi e fornito dalla barda per infilzare l'anello d'ambra. Ovviamente, per evitare che la partecipazione al palio di quel povero bizzarro cavaliere potesse trasformare un evento così importante in una mascherata da buffoni, egli venne messo in lista all'ultimo posto, perché erano tutti sicuri che qualche cavaliere avrebbe infilzato l'anello d'ambra prima di lui. E la gara cominciò. Partirono parecchi pretendenti, ma l'anello era troppo stretto, per cui nessuno riusciva ad infilzarlo, finché si arrivò inevitabilmente al turno del cavaliere sconosciuto. Bastò anche solo l'annuncio della sua partenza per scatenare le risa del popolo. «E ora l'ultimo pretendente alla mano della principessa Iris, il cavaliere senza nome!» Così lo chiamarono. Il re, la regina, le principesse, i principi e gli uomini di corte si sentirono costretti a sorridere per non mostrare imbarazzo. La principessa Iris in particolare sentì per un momento il panico, pensando che quel cavaliere sconosciuto potesse infilzare l'anello, e quasi venne a mancare perché il resto non riusciva nemmeno a immaginarselo. Ebbene, quando il cavaliere senza nome incitò il vecchio mulo a muoversi, accarezzandogli le lunghe orecchie, questi ragliò e si impennò, sollevando una nuvola di polvere, e tutto il popolo cominciò a ridere, pensando che quella buffa apparizione fosse una trovata della corte per dilettare il popolo. Quando però la nuvola di polvere si diradò, apparve un cavallo nero, possente, la cui criniera fluttuava sui due lati del collo come fossero ali. Lo cavalcava un giovane cavaliere di piccola statura, ma baldanzoso, fornito di armatura dorata e alabarda di bronzo. Subito ci fu un'esclamazione di grande stupore da parte del popolo e dei reali. La principessa Iris levò lo sguardo, sgranando gli occhi. Come un fulmine, il cavallo partì al galoppo. Ma non parve che galoppasse. No, quello volava, letteralmente, con la alabarda in testa. Bastò un attimo perché il cavaliere sconosciuto mostrasse al popolo e ai reali l'anello d'ambra infilzato sulla punta della sua alabarda. Figurarsi le grida di giubilo del popolo. I reali si alzarono e applaudirono il cavaliere sconosciuto, che subito si avvicinò al palco reale per porgere l'anello d'ambra alla principessa Iris. Ma Re Bulbo lo fermò e disse: «Un momento. Prima di restituire l'anello alla principessa Iris, di cui avete conquistato certamente la mano, vogliamo sapere chi siete voi, cavaliere senza nome». Il cavaliere senza nome estrasse in silenzio da una sacca della sella una fune con la cima spezzata, insieme a un orecchio enorme dalla strana forma appuntita, e mostrandoli alla regina Coccinilla disse: «Regina Coccinilla, credo che voi possiate riconoscere questa fune spezzata e quest'orecchio mozzato appartenuto alla vostra creatura». Figurarsi lo stupore di Coccinilla e lo sguardo indagatore rivolto a lei da parte del re e di tutta la corte. «Come vi permettete, signore? Voi farneticate!» gridò Coccinilla. «Farnetico io? Forse avete ragione. Chiamandovi regina, ho commesso un'impudenza verso la corte, perché forse sarebbe meglio chiamarvi Coccinilla, la strega del bosco?» Tutti i presenti gridarono di stupore e paura. Rapida come una serpe, Coccinilla infilò le mani sotto il mantello. «Non vi serviranno a niente quei fiori, strega. Essi non hanno più alcun potere malefico». Il cavaliere senza nome strappò via da sotto il mantello di Coccinilla una sacca e svuotò in terra centinaia e centinaia di fiori di melissa. «Con questi fiori, con il loro profumo ammaliante, avete avvelenato la regina Pistilla e reso schiavo in vostro potere il re Bulbo. Ma la regina Pistilla aveva un animo puro e non poteva morire. Il mostro, Drago di Serpe, ha confessato il vostro nome pagando con la vita. E il re non è più sottomesso ai vostri poteri, perché voi non ne avete più. Vagherete per il mondo come una mendicante, scacciata persino dai cani, rinnegata dagli inferi. Guardie, portate via questa miserabile donna e cacciatela fuori dai confini del mio regno!» ordinò subito Re Bulbo. Coccinilla fu messa ai ceppi e portata via. «Mio re», disse il cavaliere sconosciuto, «ora cercate sotto quei fiori di melissa. Troverete una piccola sacca e apritela». Il re fece quanto chiesto dal cavaliere sconosciuto e dopo averla trovata l'aprì e vi guardò dentro. Quella ciocca di capelli lucenti che vedete appartengono alla regina Pistilla, disse il cavaliere sconosciuto, levandosi la maschera, e fu allora che tutti gridarono di stupore. Principe Bulbetto, sei tu? Oh figlio adorabile, disse il re Bulbo con le lacrime agli occhi. Ero certa che non fossi morto, mio amato principe, gridò piena di gioia la principessa Iris mentre abbracciava il suo Bulbetto. In quell'istante tutti ebbero lo stesso pensiero e si precipitarono nella cappella funeraria dove giaceva la regina Pistilla. Quando vi giunsero, videro attraverso le pareti di cristallo della bara che il corpo della regina mostrava sempre il bel colorito roseo, gli occhi erano aperti e i lunghi capelli biondo argento la volgevano come un manto luminoso. Subito le guardie aprirono la bara di cristallo e, tremante d'emozione, il re levò dalla piccola sacca la ciocca di capelli e li sparse sul viso della sua amata Pistilla. Bastò un attimo e la regina si svegliò, sospirando. Qualche attimo ancora ed ella si mise a sedere, fece un grande sbadiglio e poi disse: «Oh, devo prendere il caffè con Buldino! Presto, chiamate il mio amato re e ditegli che l'attendo per il caffè!» «Sono qui, amata mia regina!» «Oh, mio re, siete stato rapido questa volta! Di solito devo aspettarvi per un bel po'. Qualcosa certamente non va. Devo preoccuparmi, forse?» «Ma no, tutto va bene, mia amata regina. Tutto è come sempre, ma vi prometto che da oggi non accadrà più che faccia attendere la mia regina per il solito caffè.» «Un cucchiaino di zucchero scarso, mio re Bulbino, come sempre?» «Come sempre, mia regina.» La famiglia reale del regno di Tulipandia era di nuovo insieme. Il principe Bulbetto porse l'anello d'ambra all'amata Iris e, dopo averlo infilato al suo dito, disse: «Guardate, mia dolce Iris, il nostro anello ancora splende.» «Ah, a proposito», aggiunse il principe, tirando fuori da una tasca di sotto l'armatura un oggetto. «Ecco, a voi, principessa Iris, debbo restituirvi il fazzoletto ricamato, ma vi prego di perdonare per gli eventuali residui che potreste trovarvi. Ho dovuto usarlo parecchie volte, tant'era l'umidità di laggiù. Spero vogliate perdonare la mia impudenza. Accia! Salute!» E tutti risero di gioia. Il giorno dopo furono celebrate le nozze di Bulbetto e Iris e ovviamente tutti vissero felici e contenti nel regno di Tulipandia. Avete ascoltato Parole di storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net